Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziamo voi tutti per la cortese attenzione, siamo giunti alla conclusione settimanale, l'appuntamento rimane rinnovato per domenica prossima alla medesima ora, ringraziando sempre altresì Luca Giulio per la accorta regia. Buona giornata. Buona settimana.